Publish 24. Buonasera da Marta Cagnola, eccoci pronti per una nuova puntata di English 24. Beh, i saluti in studio sono solo i miei perché questa sera Giulia è collegata con noi da uno dei suoi tantissimi viaggi per lavoro, per piacere non sappiamo. Buonasera Giulia. Buonasera, è un viaggio di lavoro, sì, però in un bellissimo posto in Toscana, quindi non mi lamento assolutamente. E in realtà l'intervista che ascolteremo oggi invece l'ho fatta io in un viaggio di lavoro la scorsa settimana. Siamo stati a Londra insieme al National Geographic per scoprire alcuni dei documentari che vedremo il prossimo fine settimana, perché iniziano le celebrazioni per ricordare un anniversario molto importante: 100 anni fa affondava il Titanic. E noi vogliamo parlare di uno dei due documentari che vedremo in questo fine settimana, il prossimo fine settimana. C'è un autore inglese che ha scritto molti libri, sa tutto del Titanic, in particolare conosce quelle 101 cose che tutti noi pensiamo di sapere sul Titanic, ma invece non le sapevamo. Lui si chiama Tim Maltin e bene, è interessatissimo al Titanic da molto, molto tempo. When I was only 7 years old, I watched a wonderful black and white film about the Titanic called A Night to Remember, based on Walter Lord's classic account of the sinking. And ever since then, I've been fascinated by the disaster, and I've wanted to read and learn more and more and more about what happened. So I began reading survivor accounts, and then as I got older, I started reading the inquiries into the Titanic disaster, and then as I got even more interested, I started reading letters written from survivors. So now I have read pretty much everything there is. Eccolo qui Tim Maltin con questo accento inglese favoloso, un modo di parlare comprensibilissimo, Giulia, veramente un inglese fatto e finito. Sì, a cominciare proprio dalla prima frase, nel senso che dice la formula esattamente come dovrebbe essere, cioè when I was only 7 years old, poteva anche dire, gli americani lo fanno spesso, I was only 7, quindi avevo solo 7 anni, invece lui dice tutta la frase, ero 7 anni vecchio letteralmente, quindi appunto avevo 7 anni. Ha visto questo wonderful black and white film, quindi un film in bianco e nero, poi vediamo come loro dicono Titanic, mentre noi più semplicemente diciamo Titanic, e quindi c'era questo film che era based on, quindi basato su un libro, che era proprio un account of the sinking. Account è anche il conto in banca, banking account, ma è anche il resoconto, quindi in questo caso il resoconto dell'affondamento, of the sinking. Poi è cresciuto, ma da lì cosa ha cominciato a fare? Insomma, era proprio fascinated by the disaster, e del resto, insomma, il Titanic, pensiamo solo al film di James Cameron, quante persone ha affascinato, e quindi lui ha cominciato a reading, quindi ho cominciato leggendo, esattamente sì, la forma verbale è la stessa che in italiano, i survivors accounts, anche qui account, stessa parola di prima, i resoconti dei sopravvissuti. As I got older, quindi man mano che diventava più grande, e ha continuato a documentarsi proprio, una vera e propria ricerca con grandissima precisione. Sì, perché dopo questi survivors accounts, perché naturalmente sono morte moltissime persone, ma anche tante si sono salvate e poi hanno raccontato, chi ha scritto libri, chi si è fatto intervistare, lui ha started reading, stessa formula di prima, I began reading, qui dice I started reading, the inquiries into the disaster, inquiries nel senso le inchieste, le investigazioni, cioè tutto quello che c'è stato poi a livello legale sul disastro. E a Londra abbiamo visto alcune anticipazioni del suo documentario Titanic Case Closed, caso chiuso, ma siccome ci sono ancora molte zone d'ombra abbiamo chiesto a Tim Maltin in cosa in particolare secondo lui è un caso chiuso. The documentary Case Closed is based on my book A Very Deceiving Night, and the part of the case which is closed is a part of the case called the Californian Incident, and that is a matter which relates to a nearby ship which failed to come to Titanic's aid. But the other part of the case which is closed is that for 100 years the mist which the lookouts said they saw has been not believed, but my research shows that the lookout talking about a mist on a clear night is consistent with a superior mirage. Both of the lookouts said that the iceberg came out of a haze at the last moment. And this was disbelieved because all of the passengers talked about how clear the night was. But what I've discovered is that the haze they thought they saw was in fact the scattering of light in a mirage where you can see a long, long way. And because of the depth of air, that is what causes it to look like a haze. La teoria di Moltine è particolarmente affascinante perché è una teoria scientifica. In pratica c'è stata una sorta di miraggio. Il capitano non ha visto l'iceberg perché per alcune condizioni climatiche molto particolari questo iceberg non si vedeva, non l'hanno visto le vedette. Cosa è successo? In che cosa, secondo lui, questo è un case closed? Sì, perché dice appunto se poi guardiamo queste inquiries che lui ha studiato, in realtà il caso non è chiuso, l'unico caso chiuso è quello di questa Californian Incident, l'unica parte che veramente è stata dalla giustizia americana considerata chiusa era questa piccola nave che avrebbe dovuto aiutare il Titanic e non l'ha fatto, e questa è naturalmente una grave mancanza nel codice marino, e quindi quel caso è chiuso, tutto il resto no, e questo è parte di questa deceiving night, cioè una notte in cui tutti hanno preso degli abbagli letteralmente, perché come dicevi tu era questa tutta la sua research shows e c'è consistent è veramente un false friend, non vuol dire consistente ma coerente con, quindi lui ha tutte queste sue ricerche e prima aveva detto I've read pretty much everything there is, quindi lui è convinto di aver letto tutto quello che si poteva sul Titanic, ebbene non c'era questa haze, questa nebbia di cui tutti hanno parlato, era in realtà un altro fenomeno, come hai detto tu, un mirage dovuto al tipo di luce che si instaura nell'oceano aperto a quelle temperature di notte. Tra l'altro, siccome questa teoria è molto interessante, ne riparleremo anche la prossima settimana perché dedicheremo un reportage speciale proprio al Titanic e a questi documentari interessantissimi. Ma torniamo all'inizio della puntata, quando vi ho detto che Tim Moltin ha scritto questo libro basato sulle 101 cose che crediamo di sapere sul Titanic, ma in realtà non le sappiamo. Gli ho chiesto, ma quali sono le principali? Well, there are so many. I think the obvious ones are in the Cameron film, the ship seems to tip up to an angle of 45 degrees, when in fact we now know, and indeed James Cameron now knows, that Titanic broke at only a 15 degree angle. But there are many other things, like for example, people are very fond of saying that the reason why the Titanic hit the iceberg is because the lookouts were not supplied with binoculars. Now, whilst it is true that the lookouts should have had binoculars and would normally have had binoculars, it is also true that binoculars are not the right thing to use to see icebergs. In fact, if you want to spot icebergs at night, the best way is with the naked eye, because binoculars restrict the field of vision. Therefore, binoculars are for inspection of an object, but not for detection of an object. Giulia, se gli inglesi parlassero sempre come parla Tim Moltin, saremmo a posto, perché è di una chiarezza veramente specchiata. Lui è precisissimo e ci fa un paio di casi, tra tutti appunto i 101, di cose che noi crediamo di sapere sul Titanic che invece sono assolutamente false. Sì, uno è questo, l'inclinazione, no? Che tutti pensiamo che il Titanic tip up to an angle of 45 degrees, che praticamente si è rovesciato, si è inclinato fino a un angolo di 45 gradi. Beh, lui dice, in fact, we now know, in realtà, e non infatti, ma in realtà, in fact vuol dire in realtà, we now know, and even James Cameron knows, anche se nel film Titanic la nave è in effetti inclinata a 45 gradi, forse anche di più, it was a 15 degree angle, era un angolo di solo 15 gradi, più che sufficiente per carità per riempire tutte le parti inferiori della nave d'acqua e quindi farla affondare poi, o comunque causare l'evacuazione, però non 45 ma 15. Okay. Più spettacolare da vedere al cinema, ma non è così. E poi il problema dei binocoli, qualcosa di molto interessante. Sì, dice che i lookouts, cioè le sentinelle, they are supplied with binoculars, cioè gli vengono forniti, to be supplied with something, con questi binoculars. E quindi lui dice, whilst it's true they should have had binoculars, questi lookouts del Titanic non li avevano. E lui dice, benché sia vero, whilst vuol dire benché, che avrebbero dovuto averli, they should have had binoculars, it is also true che i binoculars are not the right thing to use to spot icebergs, non sono la cosa migliore per vedere gli icebergs. Gli icebergs si vedono bene with a naked eye, a occhio nudo, ebbene sì. E quindi, se siete curiosi di sapere di più del Titanic, vi do due appuntamenti, che sono quello con lo speciale, il reportage speciale di Radio 24 il prossimo fine settimana, e anche con i documentari che andranno in onda sempre il prossimo fine settimana su National Geographic, ma vi diremo di più man mano che passa il tempo all'avvicinarsi appunto appunto di questa celebrazione del centenario. Io intanto ringrazio Giulia. Giulia, alla prossima puntata. Alla prossima settimana, sì. E ringrazio anche Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo l'appuntamento con English 24 in edicola. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona serata.